Proseguiamo sulla scia di quello che abbiamo lasciato l'altra volta nella Gemara, che stiamo per concludere questa pagina che è il 13b, e poi abbiamo il nuovo libretto che distribuirò per le prossime lezioni. Stavamo parlando, se vi ricordate, di uno che si addormenta mentre dice lo Shema. Vero? È praticamente sulla pagina qui. Quello che diceva scuotimi. Sì, bravo, quello che diceva svegliami, svegliami se mi addormento. Sì. No, no. È qui, 13b, è la seconda, il secondo lato. Ed è Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef sono 2, 4, 6, 9 righe da sotto in mezzo alla riga un po' prima della metà. C'è un asterisco, bravo, Amar Rav Yosef. Su queste fotocopie e altre lo trovate pagina 17. Abbiamo detto, se uno ha detto il primo versetto dello Shema e poi si è addormentato, il sonno lo ha travolto, si è addormentato, è comunque uscito d'obbligo perché ha detto il primo versetto. E poi abbiamo avuto diverse testimonianze di maestri come si comportavano in una situazione simile. Continuando su questo, abbiamo ancora un brano su questo tema qui e poi torneremo a commentare il proseguo della Mishnah. Allora, questo Amar Rav Yosef è l'ultimo brano legato al discorso che stavamo facendo prima. Amar Rav Yosef, disse Rav Yosef, Prakdan sarebbe una persona che si trova in posizione supina, cioè è sdraiato a pancia in su, lo yikra kriat shema, non legga lo shema, cioè in quella posizione non è rispettoso leggere lo shema, in generale non è rispettoso. E Rashi aggiunge anche che, visto che una volta dormivano senza alcun indumento, solo con la coperta, allora se dovesse essere la persona eccitata, ancora meno rispettoso, anche in generale, ma anche in particolare in quella situazione. Quindi dice, una persona che si trova in posizione supina non reciti lo Shema, deve cambiare posizione. Su questa cosa la Gemara dice, obietta quelle parole di Rav Yosef, dicendo, in teoria, quello che tu stai dicendo, dice la Gemara, Mikra hu dell'alikre, tu stai dicendo che lui in quella posizione non legga lo Shema. Mikra, no? La lettura, parliamo ovviamente della lettura dello Shema. Però, ha Migna, invece, tu vorresti implicare che dormire, Migna, cioè dormire, Shapir da me, è permesso, va bene? Invece noi abbiamo una fonte, come adesso citeremo, che dice che anche proprio dormire in quella posizione non è bello, non sarebbe degno, non è giusto. Dovrebbe dormire su un lato e non in posizione supina. Quindi non è solo una questione dello Shema, è proprio una questione generale di come è giusto dormire con rispetto. Qual è questa fonte? Ah, Rabbi Yoshua ben Levi, troviamo che il maestro Rabbi Yoshua ben Levi, Lait, maledì Amman de Ganea Praked, maledì uno che dormiva in posizione supina. Come dire, non è mai bene stare così a letto, non è solo una questione di quando si fa la mitzvah di leggere lo Shema. Allora, la Gemara, quindi in questa maniera si vuole obiettare l'insegnamento di Rav Yosef, giusto? La Gemara dice, Amre, si dice, cioè i maestri della Yeshiva, i Chachamim, che stavano discutendo questa cosa, dissero per spiegare la posizione di Rav Yosef, l'opinione di Rav Yosef, senza che ci siano delle obiezioni a riguardo. Dicono i maestri, Migna, Quando la persona dorme, allora chi matzle shapir dame. Chi matzle vuol dire basta che ci si inclina un po' sul fianco, va bene, shapir dame. È permesso, è tutto a posto. Però questo non è sufficiente per la lettura della Shema, dello Shema. Mikra, per la lettura, cioè dello Shema, falgav de matzle, nonostante la persona si inclini, nami asur, nami vuol dire anche vietato, asur vietato, e comunque non va bene. Cioè uno che dorme dice ok, mi inclino un po', non sto proprio così a pancia in su, però quello andrebbe bene, ma invece per la lettura dello Shema ancora non è sufficiente come rispetto per la mitzvah, e quindi dovrebbe, cosa dovrebbe fare? Si deve inclinare. E abbiamo detto che inclinare non è sufficiente per lo Shema, è sufficiente per dormire in generale, ma non è sufficiente per lo Shema, quindi è seduto. Bisognerebbe o stare seduto, o stare completamente sul lato, non solamente inclinato verso il lato, ma almeno, come minimo, tutto il busto sul lato. E questa in realtà è una discussione nell'Alaha, perché lo Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dice che bisogna stare seduti. Il Rema, Rabbi Moshe Iserlis, è dell'opinione che si può anche stare sdraiati, ma completamente sul lato. Quindi in base alla situazione si può alleggerire, diciamo, ma non in posizione, come dicevamo, leggermente inclinati o supini. Inoltre va aggiunto che per ciò che riguarda la parola perakdan, che abbiamo detto uno che è sdraiato supino, posizione supina, cioè pancia in su, esiste una opinione che credo sia l'opinione del Aruch, il Aruch Rebbi Natan, autore dell'Aruch, sì, che era un grande maestro, citato da Rashi e da tantissimi grandi maestri, che era di Roma, e forse può essere un tuo trisavolo, Natan di Roma, e lui si dice che lì a Trastevere, quel tempietto che hanno trovato, si dice che lui frequentava lì. Comunque, lui ha scritto un'opera molto importante proprio come un dizionario di talmudico, e secondo lui perakdan vuol dire non supino ma pancia in giù, Bocconi. Situazione prona, sì, posizione prona, e quindi cioè, entrambe quella che è vietata, sì, secondo lui la traduzione proprio di questa parola non è come molti altri traducono a pancia in su, ma secondo lui a pancia in giù, che la Halakha invita ad essere rigorosi e considerare entrambe queste cose, quindi di non dormire né a pancia in su né a pancia in giù, ma sul lato è considerata la posizione migliore sul lato, considerando anche che, come dicevo prima, che una volta la gente dormiva senza nessun indumento, solo con la coperta, allora anche che magari nel sonno si scopre, eccetera. Anche per questo, però l'alaha è sempre valida. Con questo si conclude quello, come dicevo, questo brano di Gemara formato da alcuni brani che riguarda il sonno e diversi aspetti del sonno nella lettura dello Shema. Ora torniamo a quanto abbiamo detto nella Mishnah, perché come voi sapete la Gemara spiega ed analizza quanto si dice nella Mishnah. Allora, la prima cosa che la Mishnah ha detto riguardava la Kavanah, e abbiamo fatto alcuni approfondimenti su come si definisce questa Kavanah, è l'intenzione di quanto stai dicendo, è l'intenzione di uscire d'obbligo la mitzvah, e qual è il criterio minimo per poter rientrare in questa Kavanah. Siamo arrivati alla conclusione che il criterio minimo è il primo versetto. Quando è detto con Kavanah si esce d'obbligo, non che non è necessaria la Kavanah, per il resto è necessaria, ma se a posteriori non ci fosse o se non ci fosse la possibilità, comunque usciamo d'obbligo anche con il primo versetto. E abbiamo fatto varie considerazioni in questo tema, e ci ha portato anche a parlare del sonno, perché abbiamo detto se uno ha detto il primo versetto e poi si è addormentato è uscito d'obbligo. Adesso torniamo a citare il prossimo passo della Mishnah, il prossimo brano della Mishnah, e lo commentiamo. Il prossimo brano della Mishnah di che cosa si occupava? Vi ricordate che si occupava della interruzione in mezzo allo Shema, in particolare riguardo, per esempio, un saluto. Se qualcuno si presenta mentre stai leggendo lo Shema, è permesso salutarlo o no? Oppure, se qualcuno ti saluta mentre stai leggendo lo Shema, è permesso rispondere al saluto o no? E su questo abbiamo letto nella Mishnah, abbiamo studiato, che c'è una discussione tra Rabbi Meir e Rabbi Yehuda. Giusto? Sì. Ok, allora, torniamo un attimino indietro e leggiamo di nuovo questa parte della Mishnah, queste due o tre righe, perché per averlo chiaro, così possiamo capire quello che la Gemara poi cercherà di analizzare nella Mishnah. La Mishnah dice così. Ba perakim, è la seconda riga della Mishnah, o terza riga. Seconda riga. Giusto? Ba perakim. Aperachim vuol dire in mezzo ai brani, mentre sta leggendo un brano, è la seconda riga proprio in mezzo alla riga. No, no, della Mishnah, dove inizia il capitolo, in mezzo dove vedi bianco. Sì. Ayakore, e una riga dopo. Ba per Akim. Sì, ok. Ba per Akim, bisogna tornare la pagina indietro, per venire proprio all'inizio di questo capitolo della Mishnah. E lì alla seconda riga c'è scritto va per Akim. Seconda riga della Mishnah. Va per Akim vuol dire durante. Scusate, tra. Brani. Tra un brano e l'altro. Ok? Vuol dire ha detto Ubishe Arecha, ancora non ha iniziato Veayim Shamoa, per esempio. La Mishnah poi. Vi ricordate anche specificato quali sono esattamente i brani. Questo è un esempio. Allora, tra un brano e l'altro, la Mishnah dice Shoel mipene hakavod umeshiv. La persona può salutare e rispondere anche al saluto se si trova tra un brano e l'altro. Se io ho detto Bisharecha e adesso devo ancora iniziare Vayayim Shamoa, non ho ancora iniziato, quindi sono tra i brani, Paperakim. Entra qualcuno e io lo saluto, o se lui mi saluta io gli rispondo al saluto. Per quale motivo? Non chiunque sia, ma mi pene a kavod, se è una persona alla quale devo portare rispetto. Ok? Bene. Secondo Rashi abbiamo già detto l'altra volta una persona a cui va portato rispetto, cioè... una persona che esige rispetto, diciamo così. Uba emza, dice la Mishnah, però se ci si trova in mezzo a un brano, a uno dei brani, allora in quel caso, Shoel mi penei hayira umeshiv. Se solo per rispetto non interrompe, ma se per timore, può interrompere. Timore vuol dire ci potrebbe essere un pericolo se non lo salutasse, eh? Abbiamo passato questo. Sì, stiamo citando la Gemara cita questo per poi analizzarlo, perché questa parte della Mishnah non l'abbiamo ancora analizzata, come dicevo. Allora, se invece ci troviamo in mezzo al brano, si risponde al saluto e si saluta per timore, ma non per rispetto, non è abbastanza importante il rispetto per farci interrompere in mezzo al brano, solo tra i brani. Questa è l'opinione di Rabbi Meir, di Vrei Rabbi Meir. Mentre invece abbiamo un'opinione diversa, che è quella di Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, disse Rabbi Yehuda, Baemza, se ci si trova in mezzo a un brano, allora Shoel mi peneaira. Sono d'accordo che per il timore si dà il saluto. Shoel vuol dire letteralmente si chiede, cioè come stai? La domanda vuol dire dare il saluto. Shoel mi peneaira. Ma lui è più facilitante in quanto dice un meshiv mi pene a kavod. Anche in mezzo a un brano si può rispondere meshiv solo per rispetto, anche se non è per timore. Quindi non puoi chiedere, cioè salutare per rispetto, ma se qualcuno ti saluta, anche se è solo per rispetto e non solamente per timore, puoi rispondere quando ti trovi in mezzo al brano. Non le abbiamo viste queste cose? Sì, certo, l'abbiamo studiato nella Mishnah, come diceva Adalberto. Stiamo, adesso la Gemara cita la seconda parte della Mishnah per analizzarla. Faccio una premessa. La Gemara, di nuovo, la Gemara è strutturata in questa maniera che si appoggia e analizza le parole della Mishnah. Però la Mishnah ha vari brani, in particolare questa Mishnah è una Mishnah con diversi punti. Quindi la Gemara ha prima analizzato la prima riga della Mishnah. Uh-huh. Una volta fatto, quello che la Gemara fa nell'edizione classica, mette due puntini, come dire, concluso, non è due puntini come nel senso moderno, concluso, cita le prime parole del prossimo brano e poi analizza. Quindi noi stiamo citando il prossimo brano della Mishnah per rinfrescarci la memoria, perché adesso la Gemara analizzerà questo brano qui della Mishnah. E l'altra volta che parlavamo proprio delle varie interpretazioni dei vari rabbanim, non era Gemara? No, era Mishnah. Ah. Quando, quello che noi stiamo ripetendo adesso l'abbiamo già studiato quando abbiamo studiato la Mishnah. Ed era questa discussione tra Rabbi Meir e Rabbi Yehuda. Ma la Gemara, successivamente alla Mishnah, ancora non ha analizzato. Lo vedremo adesso. Riprende questo e continua. Lo riprende e approfondisce, analizza. Ora vediamo. Parte dalla Gemara, però all'inizio comanda. No, parte dalla Mishnah. No, quelle sono La Mishnah comanda. Parte dalla Mishnah e la Gemara analizza per approfondire. È il ragionamento con cui si arriva, no? Anche la Gemara. Anche. La Mishnah è più importante. Sì, si esprime, la Gemara cerca di estrapolare dalla Mishnah tutto il suo significato e tutte le implicazioni che potrebbero essere non esplicite. L'alaha è diversa. Ok, allora di nuovo. È la fine. È la regola. È la regola. È la regola. Ok, non facciamo confusione. Torniamo a noi. Rabbi Yehuda ha detto: in mezzo a un brano si dà il saluto per il timore, non per il rispetto. Per il rispetto non si interrompe. Però si risponde anche per il rispetto. Non si dà il saluto, ma se qualcuno dovesse salutare, se è una persona degna di rispetto, gli si dà la risposta al saluto. Anche in mezzo a un brano. Non solamente tra un brano e l'altro. Mentre invece, continua Rabbi Yehuda e dice, Uba perakim, quando ci troviamo in mezzo a un brano, allora lì, scusatemi, tra un brano e l'altro, non è Baemza in mezzo al brano, ma Baperakim, cioè tra un brano e l'altro, in quel caso, Shoel mi penea kavod, in quel caso per il rispetto si può anche dare il saluto e la risposta la si può dare a qualsiasi persona, anche se non è neanche per rispetto. Introduce un terzo elemento. Fino adesso conoscevamo l'elemento timore, l'elemento rispetto. Adesso Rabbi Yehuda dice, però se ci troviamo tra un brano e l'altro, sicuramente per timore possiamo sia salutare che rispondere. Anche per rispetto possiamo sia salutare che rispondere. E anche così, non per timore né per rispetto, ma per qualsiasi persona, non diamo il saluto, ma rispondiamo al saluto se ci troviamo in mezzo al brano. Questo ha detto la Mishnah, sì. Non riesco a capire il significato di timore. Allora, su timore ci sono due opinioni, però quella di Rashi, quella più comune, è quella proprio che se si tratta di un pericolo se non rispondessi. Quale può essere? Quale può essere? Perché tu vivi in una democrazia. Ecco perché. Però se ti trovassi sotto qualche nobile o sotto qualche re o qualche cosa, dove se tu non hai il dovuto rispetto ti trovi in pericolo anche di vita in certi contesti, certo. Allora dice per timore puoi rispondere, puoi dare il saluto. Questo si intende, sì, nel senso più attuale, semplice. Ecco perché allora non riuscivo a capire. Quando ti saluto, mi saluto. Ok, ora torniamo, rigiriamo la pagina e torniamo alla Gemara. Guardate com'è strutturato. La Gemara cita queste, dov'è? Qua, c'è vedete i due puntini? Ho visto. Qua, giusto. Qua. Sì, due puntini, poi Uba Perakim Shoel, e tra un brano e l'altro si chiede Vehule, Vehule, questa abbreviazione, Gemara, esatto, qui è la citazione della Mishnah. Sì. Poi sulla prossima riga c'è scritto Vehule, che vuol dire eccetera. 1, 2, 3, La sesta dal basso. La sesta dal basso. L'inizio della sesta. Vehu, che è un'abbreviazione, vehule, vehule vuol dire eccetera. Quindi stiamo commentando tutto il brano, non solamente la parola Bapre. Ok, quando avete tutti il posto, fatemi sapere così procediamo. Allora, vedete Bapre Hakim Shoel è come se fosse tra virgolette, perché è una citazione, forse in questa edizione già ce l'hanno messe le virgolette, no. No. Allora la Gemara dice così, Bapre Hakim Shoel vechule, in mezzo tra un brano e l'altro si può rispondere, dice Rabbi Meir, per... Si può salutare per rispetto e anche rispondere al saluto. Questo ha detto Rabbi Meir. Ok? Lui ha detto Bapre Hakim Shoel mipnei hakavod un meshiv. Può dare il saluto e rispondere anche se è solo per rispetto tra un brano e l'altro. Bapre Hakim. Ora la Gemara analizza. Facciamo attenzione alle parole della Gemara. Meshiv, quando questa Mishnah Rabbi Meir ha detto meshiv, che risponde... Risponde per quale motivo? Mechamat mai. In quale caso, per quale motivo può rispondere? Vediamo. Analizziamo. Ora la Gemara analizza. Ilema mi pene hakavod. Ilema vuol dire se dovessimo dire, se diciamo che è mi pene hakavod, che può rispondere per rispetto, perché la frase qual è? Chiede, dà il saluto per rispetto e risponde. Sembra che risponde va sullo stesso caso, sempre per rispetto. Però, se è così, non ha senso. Perché non ha senso? Perché se può dare il saluto, ha maggior ragione che può rispondere. Abbiamo sempre visto nella Mishnah che rispondere è più facilitante di essere il primo di a priori dare il saluto. No? Allora, se può rispondere se può dare il saluto per rispetto, sicuramente può anche rispondere. Hashta, la Gemara lo dice in questo modo, Hashta Mishael Shail, ora, Hashta vuol dire ora, ora che può dare il saluto, può salutare, Ahadure, il fatto che può rispondere, lo dice Meshiv in aramaico, Ahadure in aramaico, rispondere, mi baia, è forse necessario dire a noi che può anche rispondere? È chiaro che può anche rispondere, è logico, quindi non può essere questo il senso di questa frase. Proporremo adesso subito un altro significato. E là, solamente il senso deve essere, in teoria per forza, quanto segue. Cioè, Shoel mi pene hakavod, come ha detto Rabbi Meir nella Mishnah, si dà il saluto, si saluta per rispetto. Se c'è una questione di rispetto, allora puoi dare il saluto tra un brano e l'altro. Invece la risposta, che è sempre più facilitante, un meshiv, Shalom le kol adam. E invece la risposta di Shalom, il saluto, lo ridà a chiunque, anche se non c'è il criterio del rispetto tra un brano e l'altro. Ok? Questo è, in teoria, il senso della prima frase di quanto ha detto Rabbi Meir. Perché se no non ha senso e risponde. Certo che risponde per rispetto. Se dà il saluto è chiaro che risponde al saluto. Evidentemente vuol dire che risponde anche senza il criterio del rispetto. A qualsiasi persona che gli dà il saluto lui può rispondere tra un brano e l'altro. Ok? Vediamo, continuiamo un attimino. Eima Seifa. Eima vuol dire di. Seifa è come sof in ebraico, fine. Cioè la seconda parte della frase di Rabbi Meir. Vuol dire fine, ma non è sempre la fine del discorso. Vuol dire la prossima parte. Qual è la prossima parte? Ha detto Rabbi Meir, Uba Emza, se invece si dovesse trovare in mezzo al brano, non tra un brano e l'altro, ma Baemza, in mezzo al brano, allora Shoel mi pene hakavod. Scusate, mi pene agirà. Bravo, mi pene agirà. Dà il saluto solo se c'è il criterio del timore, ma se non c'è il criterio del timore, c'è solo quello del rispetto, e a maggior ragione quello di così qualsiasi persona, no, non dà il saluto. Un meshiv e risponde. Di nuovo la Gemara fa la stessa considerazione. Meshiv mahamat mai. Per quale motivo può rispondere quando sta in mezzo a un brano? se mi dicessi che ilema, se diciamo che mi penehaira, che è per il timore, così come può dare il saluto per il timore, può anche rispondere per il timore, di nuovo, stessa considerazione, hashta, ora che Mishal Shael, ora che ha il permesso di dare il saluto, di salutare, ahadure mi baie, ci devi forse dire che può anche rispondere, è chiaro che può anche rispondere, a maggior ragione, di nuovo, la risposta è sempre più facilitante del saluto stesso, giusto? Allora a che cosa si riferisce questo Meshiv, che può anche rispondere quando si trova in mezzo al brano? Rispondere per quale motivo? E là solamente siamo costretti a dire che di nuovo stiamo abbassando il livello, il criterio della risposta, giusto? Anche se non è esplicito nelle parole di Rebbe Meir, come prima. E là mi penea kavod. Vuol dire che puoi rispondere per rispetto. Il saluto lo puoi dare, puoi salutare per timore. Ma se qualcuno ti saluta a te, se è una questione di rispetto, allora puoi rispondere anche in mezzo al brano. Così dobbiamo, sembrerebbe, siamo forzati in qualche maniera ad interpretare le parole di Rabbi Meir. Giusto? Cioè la risposta è sempre stata un criterio meno rigoroso. E se non fosse così, non c'è nessun motivo che lui deve dire un meshiv e può anche rispondere. Perché se fosse per lo stesso criterio del timore, non c'è bisogno di dirlo. Ha maggior ragione che è così. Se può dare, se può salutare, può rispondere. Evidentemente dicendo e risponde sta aggiungendo un'altra halakha, ovvero che può rispondere per rispetto e non solo per timore. Scusa. Anche se per rispetto non può salutare. Fino a qui abbiamo analizzato. Come diceva Tony, per timore, cioè di solito se entra una persona più importante sei tu che devi salutare per primo, non lui che saluta. Questo è rispetto, non si chiama timore questo, questo si chiama rispetto. Sì. Questo è il caso di rispetto. Allora, sul rispetto, cosa dice Rabbi Meir? Se entra una persona importante, se tu stai tra un brano e l'altro, lo saluti. Ma se stai in mezzo a un brano, non interrompi per salutarlo, nonostante è una persona a cui devi portare rispetto. Ma se lui ti saluta, rispondi al saluto, anche se stai in mezzo al brano. Questo dice Rabbi Meir. A me non è chiaro una cosa. Sì? Beato te, solo una cosa. No, momentaneamente. Cosa non è chiaro secondo te? Forse sarà la domanda della Gemara, però sentiamo. Perché qui, cioè, qui dice Rabbi Meir intendeva dire. Sì. Cioè, e se non intendeva dire questo? No, cioè, intendeva proprio... nel senso vuole dire, significa. Sì, però questa è la funzione della Gemara, per vedere se possiamo avere la prova che questa è veramente l'intenzione di Rabbi Meir. Infatti la discussione non è finita ancora. Stiamo ancora analizzando, ma l'analisi della Gemara è proprio rapportata ad entrare nelle intenzioni dei maestri della Mishnah, che loro esprimono attraverso il fatto che usano delle parole molto specifiche, dei modi di dire molto specifici, ci sono anche dei criteri generali, e in base a tutte queste cose la Gemara analizza qual è l'intenzione. Sì? È un discorso sul quale si può allargare. È un punto importante. No, perché però non è oggi il momento, no, di farlo. Sì, ma in generale, cioè, ecco, tipo, te dici una cosa. Sì. Io penso che tu intendevi dire quella cosa, ma probabilmente la tua intenzione era totalmente, certo, un'altra. Però poi magari quello che dice lui, sì, mi può influenzare il pensiero che tu hai detto. Esattamente. Cioè, quindi poi alla fine la persona che dice o che esprime l'intendeva dire, sì, non è detto che sia l'intendeva dire assoluto. Bravo, sì, questo, esatto. Quasi di rispetto. È anche una questione, credo. Cosa? Sia proprio questo il senso rispettoso della etica tra le varie opinioni. Cioè, cioè, non rispetto. È che dico una verità, interpreto, spiego. Esatto, poi però esatto. Viene qualcuno. Allora la Gemara, in base a queste discussioni, sì, anche riguardo le intenzioni di chi ha espresso le opinioni, arriva a delle conclusioni. E quindi per questo motivo non si fanno sconti. La Gemara scava e scava finché non è chiaro che la conclusione sia in un modo o in un altro. Perché non dice no. Allora, ha detto un maestro che quel maestro intendeva così, punto e basta. Dipende. Ci sono diversi, di nuovo dico, si può fare tutta una lezione su questo. Ci può essere che lui abbia una tradizione a riguardo, che risale, che quando Rabbi tal di tal ha detto così e così, intendeva dire così e così. Questa potrebbe essere o una propria interpretazione che poi va analizzata e verificata, oppure potrebbe essere una tradizione ricevuta, che in quel caso ha una valenza maggiore, diciamo. Dipende anche dal caso specifico. Non In questo caso stiamo analizzando. Ma se è una tradizione, dunque quel rabbino non è la sua intenzione, perché viene da una tradizione antecedente. Tradizione vuol dire, Rabbi Meir ha detto mi così. Segui una tradizione. Écoutez une minute. Rabbi Meir ha detto cosa intendo per tradizione. Nella Gemara a volte abbiamo il caso che Rabbi Meir dice in una maniera. Faccio l'esempio di Rabbi Meir perché è il Tana che abbiamo citato qui. Viene un altro maestro e dice: ho ricevuto una tradizione dal mio maestro, che ha ricevuto dal suo maestro, che ha ricevuto dal suo, che Rabbi Meir intendeva così e così. Cioè non interpretazione, ma che Rabbi Meir ha spiegato la sua intenzione. In quel caso è Rabbi Meir stesso che trasmette veramente cosa intende. Ma non sempre è così, per esempio qua non è così. Qua la Gemara sta analizzando e quindi adesso vedremo che andiamo avanti e indietro un attimino. Non è conclusa la cosa, anche perché c'è un problema logico che ancora dobbiamo sollevare. Ma sì? Scusa l'ignoranza, ma questi personaggi non erano coesistenti, cioè non esatto, scusami tu che non l'ho specificato, è chiaro. L'avevi già spiegato. Forse l'avevo spiegato. La Mishnah e la Gemara sono chiaramente due epoche anche molto distanti. La Mishnah è formata da opinioni di maestri che vanno su varie generazioni. Rabbi Yehuda Nasi, che è il redattore della Mishnah, raccoglie, per esempio, Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Nasi ha assistito a qualche lezione di Rabbi Meir, ma era di un'altra generazione. E ci sono opinioni nella Mishnah che sono di generazioni precedenti a quelle di Rabbi Meir. Ci sono varie generazioni di Tanaim, e dopo Rabbi Yehuda Nasi ci sono varie generazioni di Amoraim, cioè maestri della Gemara. Ecco perché non è che possiamo bussare, non possiamo bussare alla porta di Rabbi Meir e chiedere cosa intendevi? Almeno due secoli dopo, giusto? Almeno. Potrebbe anche essere due secoli, sì, in base a esattamente quale strato di Gemara vedendo adesso, sì. Ora, ci siamo quindi? Cosa abbiamo costituito? Siamo arrivati ad una, diciamo così, conclusione, che non sarà una vera conclusione, però sembrerebbe, da quanto abbiamo detto finora, che secondo Rabbi Meir, se ci si trova in mezzo ad un brano, si può salutare per il timore, il timore è la cosa più pericolosa, quindi si può salutare se ci si trova in mezzo a un brano, ma non si risponde per il timore, solo per il rispetto. Scusate, chiaramente si risponde anche per il timore. Scusate, allora riformulo la frase. Secondo Rabbi Meir, se ci si sta leggendo in mezzo il brano dello Shema e c'è un problema di timore, chiaramente si può dare il saluto, a maggior ragione si può rispondere al saluto nel caso del timore. Invece, per ciò che riguarda il rispetto, kavod, si risponde al saluto in mezzo al brano, ma non si dà a priori, non si saluta. Ora la Gemara, la domanda è, Hainu di Rabbi Yehuda? È la stessa cosa che dice Rabbi Yehuda? Il modo in cui noi abbiamo capito il senso di quanto ha detto Rabbi Meir, in teoria, è esattamente quello che dice Rabbi Yehuda. Citiamo subito le parole di Rabbi Yehuda, di Tnan. Perché abbiamo studiato nella nostra Mishnah Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda disse, Ba Emza, se ci si trova in mezzo al brano, se ci si trova in mezzo a un brano durante la lettura dello Shema, Shoel mi peneaira, può salutare per timore. E un meshiv, e può rispondere per il criterio minore, cioè mi penea kavod, per rispetto. E mentre invece Rabbi Yehuda aggiungeva, tra un brano e l'altro, come abbiamo letto prima nella Mishnah, questa è una citazione, uba perakim, e tra un brano e l'altro, tra i capitoli letteralmente, shoel mi penea kavod, saluta a priori per rispetto, umeshiv shalom, e risponde al saluto le kol adam, a qualsiasi persona. Quindi tra i brani c'è una differenza tra Rabbi Yehuda e Rabbi Meir. Però sull'immezzo ai brani, in teoria, è la stessa cosa. E Rabbi Yehuda discute con Rabbi Meir. Che discussione è se dicono la stessa cosa? Rabbi Yehuda lo dice in maniera esplicita, che va per Hakim, in mezzo al brano, saluta per timore e risponde per rispetto. Rabbi Meir sembrerebbe che lo dica, ma in maniera implicita, come abbiamo analizzato prima, perché sennò a che cosa si riferisce con la parola umeshiv e risponde? Risponde per timore? Certo che risponde per timore, a maggior ragione, se dà il saluto, certo che lo ridà. Quindi risponde per rispetto. Esattamente quello che ha detto Rabbi Uda. Hainu di Rabbi Uda. Esattamente quanto ha detto Rabbi Uda. In mezzo al brano si saluta per timore e si risponde per rispetto. Allora come si spiega? Ovviamente, qual è la nostra conclusione per ora? È che non abbiamo capito bene quanto ha detto Rabbi Meir. Perché se l'avessimo capito bene, è esattamente quello che dice Rabbi Uda. E qui c'è una discussione. Se c'è una discussione vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Perché non discuterebbero così tanto per parlare. Ok? Ora dobbiamo dare una soluzione. Allora la Gemara ha un metodo, che è uno dei modi che la Gemara spiega le Mishnayot, e adesso lo leggiamo. La Gemara dice queste parole. Hasure machsera è una Mishnah mancante, cioè manca qualche parola nella Mishnah, che è come se ci fosse, prima traduciamo e poi spieghiamo, c'è qualche parola che nella Mishnah non è esplicita, ma è implicita, è come se ci fosse. Ora la Gemara ci leggerà come dovremmo leggere la Mishnah, come se ci fosse quale parole, vediamo. Hasuri Mahsara, questa è una Mishnah mancante, Vahi Katane, mancano delle parole e la Mishnah va letta così, Vahi Katane, è così che la Mishnah insegna. Ora la Gemara cita la Mishnah come avremmo dovuto leggerla, anche se la Mishnah stessa non lo dice. Va per Hakim, cioè quando ci si trova tra un brano e l'altro, Shoel mi penea kavod. La persona, dice Rabbi Meir, dà il saluto per il rispetto tra un brano e l'altro. Ve en tzarich lomar, queste sono le parole che mancano. E non serve neanche dire shehu meshiv, che può rispondere. E non serve dire che può anche rispondere. Questo intendeva dire Rabbi Meir. Ed è chiaro che può anche rispondere, visto che può dare il saluto per rispetto, è chiaro che può anche rispondere, perché rispondere di nuovo è un criterio sempre meno rigoroso. Prosegue il modo in cui avremmo dovuto leggere la Mishnah, Ubaemza e in mezzo, nel brano stesso, Shoel mi pene hayira, si saluta per il timore, perché anche se siamo in mezzo al brano, ma il timore può essere pericoloso, quindi si saluta. Venza richlomar, di nuovo, non serve neanche dire Sheu Meshiv, che può anche rispondere. Divrei Rabbi Meir, questa è l'opinione di Rabbi Meir. Adesso possiamo capire l'opinione di Rabbi Yuda. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda invece dice, no, io sono più facilitante. Baemza, se si trova in mezzo al capitolo, Shoel Mipnea Yira, Umeshiv Mipnea Kavod. Non c'è più in queste fotocopie. Potete vedere nel testo stesso l'ultima riga. Baemza, in mezzo al brano, Shoel di nuovo, saluta per timore e risponde non solo per timore, come diceva Rabbi Meir, ma anche Mipnea Kavod, anche per rispetto. Andiamo alla prossima pagina, 14a, per concludere la citazione del Biuda. Uba per Hakim, e in mezzo al brano, sopra la prossima, sì. In mezzo, invece, tra un brano e l'altro, Shoel Mipnea Kavod. È successivo il rispetto per dare il saluto. Vaprakim Shoel Mipnea Kavod, Umeshiv Shalom Lechol Adam. E può dare la risposta al saluto a qualsiasi persona. Cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo analizzato la Mishnah. Siamo arrivati ad una conclusione che nel modo in cui l'abbiamo analizzata non avrebbe senso. Perché il modo in cui l'abbiamo analizzata, che abbiamo detto che Rabbi Meir semplicemente dice, prima di arrivare a quella conclusione, Rabbi Meir dice semplicemente umeshiv e risponde. E risponde a che cosa? Se risponde alla stessa cosa non lo deve neanche dire. Evidentemente intende dire, siamo arrivati noi nella Gemara a capire, evidentemente intende dire si risponde al criterio minore, cioè puoi salutare per timore e puoi rispondere anche solo per rispetto in mezzo al brano. Allora abbiamo detto scusa, non ha senso, perché Rabbi Yehuda dice la stessa cosa, che in mezzo al brano puoi interrompere per salutare per timore e puoi interrompere per rispondere a un saluto per rispetto. Allora che differenza c'è tra Rabbi Yehuda e Rabbi Meir? Non c'è discussione su questo punto, e la Mishnah invece è molto chiaro che c'è discussione. Vuol dire che non abbiamo capito qualcosa. E la Gemara arriva alla conclusione, come fa in diverse situazioni, e poi vedremo che avrà anche la prova, non è una cosa così che può inventare e andare avanti e nessuno gli può dire niente. Dopo ci sarà anche una prova per sostenere questa tesi, che non abbiamo letto bene, non abbiamo capito bene quanto intendeva dire Rabbi Meir, di nuovo parliamo dell'intenzione sua, cioè lui intendeva dire un meshiv che può anche rispondere non come una nuova halakha, che può scendere per il criterio a rispondere anche a chi c'è solo il rispetto e non il timore, bensì voleva dire ve'enza richlomar, e a maggior ragione che può anche rispondere, e rimaneva però nello stesso criterio del timore o del rispetto tra un brano e l'altro. È ovvio, quindi enza richlomar saluta, ed è ovvio che può anche rispondere al saluto. Questo intendeva dire. Ora è chiaro che adesso è più chiara la Mishnah per noi, perché è ovvio che la discussione diventa una vera discussione. La domanda però rimane: come possiamo avere la conferma che questo effettivamente era questa l'intenzione di Rabbi Meir, come sollevava prima Ariel questa questione? Allora la Gemara cita una baraita che cita Rabbi Meir stesso. Non c'è bisogno di avere una tradizione da qualcuno che ha sentito da Rabbi Meir in questo caso, perché abbiamo una baraita, e vi ricordate che una delle funzioni della baraita è di allargare quanto è stato detto nella Mishnah, cioè la Mishnah usa sempre un linguaggio molto breve, a volte omette delle cose come in questo caso, invece nella baraita li troviamo esplicite, non solamente implicite. Dettagliate. Leggiamo la baraita, ci mettiamo 2 secondi e concludiamo la lezione. La Braita dice, la Gemara cita la Braita dicendo Tanya Nami Hachi. Vi ricordate che la parola Tanya è una parola codice per indicare che stiamo per citare una Braita. Invece Tenan, come abbiamo visto prima, è una Mishnah. Tanya Nami Hachi. Abbiamo studiato anche Nami, anche Hachi così. Cioè abbiamo una Braita che dice questo quanto è la nostra teoria è confermata da una Braita. Vediamo le parole della Braita. La Braita dice così, e qui vediamo come la Braita dice quello che è scritto nella Mishnah, ma in una maniera molto più larga, cioè usando più parole, più chiarimento, più chiarezza. Dice la Braita, Hakore et Shema, se uno legge lo Shema, Upaga bo e si imbatte in Rabbo, il suo maestro, o gadole meno, qualcuno che è considerato grande per lui, nel senso che gli deve portare rispetto, allora va per Hakim. Dove si trova nella lettura dello Shema? Se è tra un brano e l'altro, la Braita dice, Shoel mi pene akavod, dà il saluto a questo suo ravo, persona per cui deve avere rispetto. Perché? Dà il saluto anche per kavod. E la Braita dice ve'en tzarich lomar she'u meshiv, e a maggiore, questo lo dice la Braita direttamente, esplicitamente, e non serve neanche dire, è ovvio che può anche rispondere al saluto di questo suo Rav, esempio che ha fatto la Braita. Seconda possibilità, uba'emza, se invece si trova in mezzo a un brano, shoel mi pneayira, il saluto lo dà solo se c'è un problema di timore. E non bisogna neanche dirlo esplicitamente che può rispondere per timore. Questo chi lo dice? Divrei Rabbi Meir. La Baraita cita direttamente Rabbi Meir in questo senso. Quello che per noi fino a 2 secondi fa era una teoria, che probabilmente si intende questo, ora è esplicito che la Baraita lo dice proprio a nome di Rabbi Meir. Mentre invece appunto Rabbi Yehuda Omer, e qui è di nuovo più chiara la discussione tra Rabbi Yehuda e Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice, Ba'emza, se si trova in mezzo al capitolo, allora Shoel mipnei Ayira può salutare solamente per una questione di timore, però un Meshiv mipnei Kavod, ma può rispondere al saluto anche se solo per una questione di rispetto. Mentre invece va per Hakim, se invece si trova tra un brano e l'altro, allora Shoel mi penea kavod. Già per il rispetto può dare il saluto, può salutare un meshiv shalom, e per ciò che riguarda il la risposta, le kol adam, meshiv shalom le kol adam, può darla la risposta a qualsiasi persona. Chiaro? Chiaro. Sì? Ma, abbiamo visto, sì, caso di timore, caso di rispetto. Sì. Diciamo, l'educazione pura e semplice. Questo senza è nulla togliere alla persona, sì, che ti capita davanti, che non vuol dire che uno non abbia rispetto. Non sarebbe abbia... chiunque. Ecco. Questo, vale. Questo è le col Adam. È chiunque. Questo è il chiunque. Questa discussione poi c'è la lacca. Cosa è la lacca? Dimmi. La regola. Cosa dice la regola? Lo vedremo tra un po' nell'alaha. Stiamo studiando le leggi dello Shema. Per rispetto si dà il saluto e si risponde a chiunque tra un brano e l'altro. Quindi l'alaha segue in realtà l'opinione di Rabbi Yehuda. In generale, quando c'è discussione tra Rabbi Meir e Rabbi Yehuda, normalmente l'alaha segue Rabbi Yehuda. Se sono più persone, per esempio, lì a chi deve dare il saluto, sì, se sono più persone, nell'ordine, che succede? Se sono più persone, uno risponde per timore, poi viene uno che risponde per kavod. Vabbè. Se rientra in quanto abbiamo detto, se è solo per rispetto, non può rispondere in mezzo a un brano. Risponde solo a quello che è per timore. Ci vediamo, se Dio vuole, alla prossima lezione.